Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo operativi, non ci può fermare nessuno, la musica deve andare avanti e quindi anche noi qui dal Groovemaster Studio siamo pronti per presentarvi un'altra carrellata di musica di novità, oggi con un suono un po' differente, perlomeno nella prima parte. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo, buonasera a Silvia Barba e Francesco Tromba. Buonasera a tutti, ciao. Ciao. Mi vuoi salutare? Sì, sì. Potresti ciao. Anche salutarmi, Trombo, ogni tanto. Ma ti ho salutato prima. Ma che c'entra? Tu mi devi salutare in onda, no? E salutare il tuo pubblico e i tuoi fans. Anche buonasera, se adesso, Silvia, avrei notato che da quando è finito Variazioni sul tema, la sua popolarità sta scemando. Un po' sì, però ti posso dire che stanno recuperando le puntate su RaiPlay per rivederle. Ecco, per rivedere il Tromba in azione. Senti, Tromba, ma tu ti devi inventare qualcosa, lo sai che per restare a galla in Italia devi sempre essere presente in televisione, ecco. Oppure devi fare delle cose delle quali poi la gente possa parlare bene o male, un po' come succede con Trump, no? Fa delle cose anche non popolari, però ne parlano tutti. Proverò con Ballando con le Stelle, oppure non lo so, forse l'Isola dei Famosi dell'anno prossimo. Lo sai che è una bella cosa? Posso chiamare qualcuno, o degli amici, no? Anche Milly Carlucci, se magari, magari potresti andare a ballare. Imparo pure a ballare, no? Almeno. Così diventi un artista completo. Sì. Eh? Mamma mia, che vergogna. Bene, questo è il Soundcheck di Radio 24. Oggi la prima parte è tutta dedicata al suono italiano della nuova generazione. Perché qualcuno ci ha detto, ma ci sono tante cose nuove in Italia che stanno venendo fuori, tu non vuoi suonare i cantautori e la musica pop italiana perché viene già suonata nelle altre radio, suonaci questo, suonaci quello. Oi ragazzi, questo è il programma 1. No? Ecco, e decido io. Non è che decido io, perché il programma è stato affidato a me, quindi io mi devo assumere la responsabilità di quello che scelgo e scelgo le cose che mi piacciono, lo ripeto. Però voi mi avete fatto delle proposte. E io le ho valutate e oggi voglio mettere in onda queste vostre proposte che riguardano alcuni nuovi protagonisti della scena italica. Perché dico scena italica? Perché il suono è proprio tipicamente italiano, un suono vagamente country americano, perché il comune denominatore è proprio la chitarra, chitarra e voce. No, e questa è una scelta proprio sonora che avete operato anche voi, non avete scelto il suono tipico, stereotipato del pop radiofonico italiano di oggi. No, perché quello non ci interessa particolarmente, visto che già è presente su tutte le altre radio quasi. Ecco, allora voi avete selezionato questi artisti considerando quali caratteristiche, Silvia? Beh, il fatto prima di tutto che siano dei cantautori, quindi scrivono, compongono le loro canzoni e poi che abbiano un suono più o meno omogeneo rispetto alla scena, che è Tromba, quella cantautoriale e indipendente. E Tromba, tu che sei un intellettuale, hai analizzato anche la parte letteraria delle composizioni? Sì, in alcuni casi sì. Sì, in non altri, sempre, invece, in altri hai ho fatto finta di nulla. Di più alla musica, Ok, allora, che cosa possiamo proporre oggi in apertura del nostro soundcheck? Allora, la prima artista è Gabriella Grasso, che è una cantante di Catania ed è prodotta anche da Carmen Consoli. Infatti lei fa l'apertura dei concerti di Carmen Consoli, adesso è in tournée insieme alla cantantessa di Catania, quindi se siete interessati potrete anche trovarla in giro controllando sul suo sito. E ha fatto questo disco che si chiama Vussia Cuscienza. Ci sono tante canzoni in dialetto e dal punto di vista musicale è molto vicina anche a sonorità argentine, sudamericane, quindi una voce molto interessante, molto bella, calda, sensuale, vi consiglio di ascoltarla. E lei se la suona e se la canta? Sì, poi ha anche dei collaboratori. Comunque qui, meno male che canto. nel senso che è il titolo della composizione. Lei è Gabriella Grasso per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Sì, non è uno scherzo, non è un altro programma, è sempre il soundcheck di Radio 24, solo che oggi, per rispondere ad alcuni amici che ci hanno chiesto di indagare un po' nel sottobosco della cultura musicale italiana, del cantautorato italiano 2.0, ecco qui una prima parte del nostro soundcheck con una selezione curata dal nostro Francesco Tromba e da Silvia Barba. E questa era Gabriella Grasso, siciliana in tournée con Carmen Consoli, come ci diceva Francesco, brano intitolato Meno male che canto. Andiamo avanti. Beh, la prossima artista invece è ligure, viene da Rapallo e il suo nome d'arte è Giua, ma in realtà si chiama Maria Pierantoni. L'album di cui ascolteremo un brano si chiama E improvvisamente, è uscito lo scorso anno nel 2016 e lei è un'appassionata di musica, una chitarrista eccellente, una compositrice, ma sfrutta anche le sue doti artistiche nel teatro, perché ha partecipato a spettacoli teatrali molto importanti, l'ultimo con Neri Marco Re, ha vinto tantissimi premi, sì, è davvero un talento. Io l'ho conosciuta ad un festival appunto in Liguria. Quanti anni ha? Beh, giovanissima, insomma, non si dice l'età delle ragazze. Non si dice, io vorrei sapere se ha 20 anni una cosa, se ne ha 30 un'altra, no, se ne ha 50 no, come no, me. No, ne ha 30. Ne ha 30. Tromba, te che mi dici? Beh, è molto interessante. Poi i capelli rossi mi piace parecchio. Le rosse mi piace. Ecco, si è acceso. Bene. Allora il brano si intitola? Si intitola Scivola Sud e ha la partecipazione di un'altra artista, di un'altra cantante molto brava che è Pilar. Soundcheck. Il suono della musica. Io trovo geniale il titolo, perché è una cosa che diciamo sempre tutti, no? Ad avenì baffone, però il nostro amico Giovanni Block, che ha un cognome contemporaneo proprio da Black Block, scrive una composizione con un titolo che ci porta invece indietro nel tempo, Ad avenì baffone. Questo è il soundcheck di Radio 24, la partecipazione in questo brano di Moda Loda Broda. Che cos'è un collettivo di... Lui fa parte, in realtà ha creato un collettivo, lui ha una storia fantastica. Stai parlando Giovanni di Block. Giovanni Block. Sì, lui diventa famoso partendo da Torino, lui stava a Torino, inizia a cantare, vince tanti premi, praticamente vince solo premi. Premio Tenco, premio Battisti, premio Musicultura, quindi arrivano le lodi, arrivano anche le case discografiche, le major, firma per le major, però lui non si sente a suo agio, non si sente se stesso, canta in italiano fino a questo periodo. Decide allora di tornare a Napoli, di tornare alle sue radici e crea questo collettivo partendo da zero, dal Teatro Bellini. Lui si forma in teatro, in realtà ha sempre frequentato il teatro, nasce come flautista, poi prende altri 2-3 diplomi al conservatorio. Caspita. E crea questo collettivo a Napoli. All'inizio erano in tre, nel giro di 4-5 anni sono diventati più di 400 e sempre lì al Teatro Bellini c'è una serata alla settimana in cui c'è una specie di open mic dove vengono appunto tutti gli artisti del napoletano, della zona di Napoli, sono liberi di esprimersi. Oltre a questo ha creato anche un festival a Campobasso, in Molise, di 3 giorni, dove è appunto dedicato sempre ai giovani artisti emergenti. Ti racconto quest'ultima cosa che è molto interessante e molto bella. Lui per la presentazione del suo ultimo disco, che si chiama Spot, ha fatto addirittura volantinaggio da solo per le strade di Napoli, convincendo le signore, che non sapevano assolutamente chi fosse Giovanni Block, di andare al suo concerto perché si sarebbero divertite. In effetti c'è stato il tutto esaurito al Teatro Bellini di Napoli. È andato benissimo il concerto di Giovanni Block che abbiamo ascoltato in Ad avenì baffone, e comunque si sente il background culturale della Napoli di Pino Daniele. Anzi, si sente Pino Daniele sì, proprio. In questo, specialmente in questo brano, sì, poi ascoltando tutto il disco vedrete che ci sono cose anche molto più varie di Giovanni Block. Allora, questo è il soundcheck di Radio 24, questa prima parte dedicata al suono italiano di un sottobosco non posso dire sconosciuto, perché sicuramente tutti questi artisti hanno già un loro seguito, un loro pubblico, fanno concerti, hanno un'attività intensa musicalmente parlando, però hanno il problema che non hanno facilità nell'airplay radiofonico, è difficile ascoltarli in giro. No, perché appunto le radio privilegiano il un pop, suono. Sì, il pop più classico, diciamo. Invece questi artisti a me piacciono molto perché ci riportano proprio alla tradizione del cantautorato italiano, cioè chitarra e voce, scrivere delle canzoni che hanno un senso anche poetico, se vogliamo. Eh sì, e ricordiamo anche quanto è difficile comunque scrivere una canzone originale in italiano. Assolutamente, è assolutamente facile. È vero, anche perché poi, soprattutto per i testi, si cade nella banalità con grande facilità. Eh sì, anche perché comunque ti confronti con degli artisti che già hanno fatto tutto, come Battisti, De André, quindi è molto molto difficile. Certo, qui ci potrebbero dire, ma anche gli americani scrivono banalità. Sì, è vero, però poi il suono rende tutto molto più interessante. Sì, tutto molto più interessante. Da Giovanni Bloch andiamo a un altro artista. È un altro napoletano, perché lui si chiama Claudio Domestico e fa parte appunto di questo progetto che si chiama Newt, ma non solo, perché poi questi artisti si amano circondarsi di collaborazioni, come è giusto che sia, e fa anche parte di un altro progetto che si chiama Arm on Stage. Diciamo che è venuto anche un po' al successo essendo presentato da Francesco Di Bella dei 24 Grana, che ha consentito appunto a Newt di farsi vedere anche ad un pubblico più vasto. C'è sempre un estro particolare, perché sono tutti musicisti che si sono formati, che hanno studiato, che hanno partecipato a tantissimi festival, a tantissime manifestazioni, e che hanno le stesse manifestazioni che hanno permesso loro di farsi un'esperienza particolare. Non sono ragazzi, pur essendo giovanissimi, che hanno poca esperienza. Davvero interessanti. Ecco, io voglio anticipare che nella giornata di oggi ascoltiamo soltanto alcuni, no? Ma c'è un mondo infinito di giovani artisti, musicisti e compositori che scrivono in italiano delle cose molto belle che non vengono rappresentate e proposte in radio e figuratevi in televisione. Cioè, non esiste soltanto il mondo pop di X Factor o quello che ascoltate di solito in radio proposto dalle multinazionali. C'è della musica molto bella in Italia che va sostenuta, quindi quando vi trovate nomi nuovi nei vostri club, nei vostri locali, c'è bisogno di avere tutta la vostra curiosità, la vostra passione per andare a sostenere il lavoro di questi giovani artisti. Sì, e tra l'altro l'ultimo EP di Gnut è stato creato tramite Music Razer, praticamente lui ha presentato il suo progetto tramite le donazioni del pubblico, del fundraising, è riuscito a realizzare questo suo ultimo lavoro. Il brano si intitola Semplice. Soundcheck. Il suono della musica. Tutto è tutto, è tutto qui. E dalla Napoli di Giovanni Bloch e Gnut ci siamo spostati a Roma con Il suono di Mesa, brano intitolato Tutto, in questa prima parte del soundcheck di oggi dedicata al suono dei nuovi, dei giovani cantautori italiani. L'abbiamo già detto, ce ne sono tanti in attività, poco rappresentati, e noi in qualche modo cerchiamo di sostenere il loro lavoro, cosa che continueremo a fare, perché promettetemi, Francesco e Silvia, che continuerete a indagare. Adesso il suono che abbiamo scelto è quello proprio tipico del cantautore tradizionale, old school, ecco, per usare un termine internazionale, però c'è anche tanta musica elettronica, tanta world music, insomma ci sono delle cose belle che vengono create in Italia, e allora credo sia arrivato il momento anche per noi di accendere i riflettori sui nostri colleghi che stanno facendo delle cose belle. È bellissimo sentirtelo dire, ed è bellissimo dare la possibilità a tutti questi artisti, più o meno, certo facciamo del nostro meglio per poter appunto farli arrivare ad un pubblico un po' più vasto rispetto a quello loro. Ecco, adesso detto ciò, so che vi scatenerete. che ci manderete qualsiasi cosa, non invadete. Voglio dire una cosa, non è che uno mette 3 accordi sulla chitarra, scrive una canzone e ce la deve mandare e noi la dobbiamo mettere in onda. Noi alla fine operiamo una selezione accurata, attentissima, e cerchiamo di proporre soltanto le cose più belle, le cose che a noi piacciono di più, e speriamo che quindi siano anche le più belle. Ora, ecco, vedi, è arrivata subito una precisazione, ma sono attentissimi, Silvia. Scherzi. Si sono offesi con te, no? Per la pronuncia, tu mi come dispiace. Hai pronunciato Gnut? Io ho detto Gnut. Hai detto Gnut, no, non invece si pronuncia Gnut. È Gnut. Chiedo scusa a Claudio Domestico, che è l'autore di questo nome. Vabbè, però pure Claudio Domestico, scusami Claudio, fatelo dire da un professionista, sono più grande di te, ti potevi pure chiamare Johnson, no? Come nome d'arte, Miles, era più facile, no? Invece Gnut, non è... È un no, po' cacofonico, piace, a te piace Gnut. Sì, è particolare. Suono gutturale che ti riporta a funzioni. No, stiamo scherzando, amico mio. Ci è piaciuto molto il tuo brano Semplice, così come ci è piaciuta Mesa con tutto. Da dove arriva Mesa? Viene da Roma, si chiama Federica Messa. È giovane, ha 24-25 anni. Viene dall'officina Pasolini. Gestita dalla bravissima Tosca. Che meraviglia, che donna, che cantante. Questo è il brano che abbiamo ascoltato, fa parte del suo EP d'esordio, che è veramente molto bello, consiglio di ascoltarlo. Si chiama Mesa, come lei, già si capisce, diciamo, quello che vuole essere, nonostante sia un'opera prima. Ha delle sonorità molto interessanti, una voce molto bella. Magari al primo ascolto può sembrare un po' simile a Levante, che abbiamo già ascoltato e che conosciamo bene, però poi andando più a fondo nell'ascolto vengono fuori tante altre cose, tante altre anime del suono di Mesa. Noi abbiamo scoperto, tra virgolette, ma posso anche toglierle le virgolette, perché siamo stati senz'altro i primi a scovare il talento, che so, di Carolina Bubico o di Serena Brancale, che comunque musicalmente sono molto spostate verso il suono internazionale degli Stati Uniti. Qui invece oggi al soundcheck, proprio sound tipicamente italico, ma l'abbiamo detto, non esiste solo questo fra i cantautori, ci sono cantautori interessanti che hanno anche un suono più fresco, più divertente, sì, giusto? Sono molto più allegri, diciamo, come sonorità. Ecco, e fra questi c'è un signore che ha, anche questo però, canta in italiano. Qual è il nome di questo Selton? Sono un gruppo in realtà. Ah, è un gruppo, ecco, il gruppo è Selton. Scusatemi ragazzi, io sono ignorante, ecco, lo voglio dire, sono ignorante musicalmente su questo versante, perché per lavoro e per passione ascolto altre cose, quindi mi scuso con i Selton. Esatto. Sono dei fratelli? I fratelli Selton? No, sono amici. Si sono incontrati amici. A Barcellona, in Spagna. Sono tutti brasiliani, dei brasiliani a Milano. Allora, scusami, tromba, io voglio capire come stanno le cose. Tu, io ti ho chiesto di selezionarmi degli italiani. Tu mi hai selezionato dei brasiliani che cantano in italiano, che non sono fratelli, si sono conosciuti a Barcellona e si chiamano Selton. Nel gruppo c'è qualcuno che di cognome fa Selton? No. Controllo, no. No, vabbè, puoi controllare, vabbè, comunque non cambia la cosa. Quindi sono brasiliani che vivono in Italia e cantano in italiano. Eh sì, sono al loro quarto album. Il primo album si chiamava Banana a Milanese. Ah, sì, Sì, sì. Ma fortissimi. Ecco perché c'è questa cosa tropicale nel sound dei Selton. Forse per questo hanno messo anche le palme a Milano, grazie ai Selton. Ai Selton, ecco perché. Allora, questi sono i Selton brasiliani milanesi e il brano si intitola Voglia di Infinito. E qui è molto scanzonato, molto, molto estivo l'atmosfera che creano. Sì, sono molto allegri. Ascoltate i loro dischi, quando vi sentite un po' giù e cambierete sicuramente umore. Va bene, poi fate una passeggiata oppure ascoltate con attenzione l'informazione di Radio 24 e torniamo con altre novità italiane e non. Soundcheck. Il suono della musica. Puntuali dopo l'informazione di Radio 24 per il soundcheck, la prova del suono con Silvia Barba, Francesco Tromba e Gegé Telesforo. E grazie, ma è formidabile, sono già arrivati tanti complimenti, grazie, ci avete fatto ascoltare delle belle cose, anche i ragazzi subito hanno scritto, ma è molto forte questa cosa. Dobbiamo farla anche qualche altra volta. Ma senz'altro, voi proponetemi delle cose interessanti e io le metto nel mio Airplay Tromba. Quando tu farai il tuo programma, farai il tuo Airplay e sarai liberissimo anche di mettere da parte la mia musica, perché sarà il tuo Airplay, io lo rispetterò per questo. Vabbè, però qualche brano forse lo passerei dei tuoi. Delle cose mie, sì. Grazie, ti voglio bene. Sei gentile. Allora, seconda parte del soundcheck, prima parte molto italica, il sound tipico del cantautorato old school, lo abbiamo definito così, ma ci sono artisti italiani che invece stanno spingendo l'acceleratore sul sound contemporaneo elettronico. E forse fra i più rappresentativi c'è una ragazza. Sì, una ragazza che in duo insieme a un altro pianista con cui si sono conosciuti perché studiavano jazz insieme a Napoli, hanno formato questo gruppo, questa collaborazione che si chiama London Fake, ma in realtà insomma sono le lettere del suo nome e cognome, perché lei si chiama Linda Fechi. È una giovanissima ragazza cresciuta a Napoli ma nata in Tunisia, quindi ha queste origini arabe che fonde anche con le sue origini napoletane, perché la mamma è di Napoli, ma fondamentalmente il suono che la influenza maggiormente è quello di Hiatus Coyote, quello di Flying Lotus, quello di Thundercat. Vorrei essere più preciso: Moonchild. Secondo me a Linda piace molto Amber Navran, e se non li conosci Moonchild, consiglio a Linda, ma senz'altro li conosce, perché è molto attenta anche alle nostre scelte e mette sempre mi piace sulle scelte che facciamo qui al Soundcheck di Radio 24. Quindi lei ci segue? Tantissimo. È una seguace. Ma stai scherzando? Ma scusa, ma perché non invitate Linda Fechi qui in trasmissione? Parliamo con mia lei, amica, no? La conosco e la ti conosci. Posso presentare direttamente. Che ne pensi di Linda Tromba? Beh, una gran bella ragazza. Ma no, ma che c'entra bella ragazza? Gran questa... bella ragazza. Artisticamente, dico. No, è anche molto brava. È anche molto brava. Tra le tante cose belle, è anche brava. Va bene, attenzione, il sound che sentite è stato creato, manipolato, pensato e realizzato in Italia. Qui non siamo a Chicago, né New York, né in California, però sentite che cosa combina Linda Fechi. Il brano si intitola Soul Ice. Se ce la facciamo, anche perché le stesure sono veramente contemporary, cioè stesure da 2 minuti e 30, 3 minuti, se ce la facciamo ascolterei anche Tell Me Why. Li mettiamo in sequenza per presentarvi il sound di LNDFK, anche questo è un codice fiscale, London Fake, qui al Soundcheck di Radio 24. Tromba, volevi aggiungere qualcosa? Ti vedo che sì, stai che per forse partire. Sono tra i pochi italiani ad aver avuto airplay da Giles Peterson dalla BBC Six. Bene. Soundcheck, il suono della musica. I'm gonna reap a soul. Reap a soul, Miles Mosley. Sì, attenzione, qui abbiamo cambiato, ci siamo già spostati, siamo andati negli Stati Uniti con Miles Mosley dopo una prima parte tutta italiana, però questa è un'esperienza che continueremo a fare, continuiamo a cercare nel sottobosco italiano cose interessanti in italiano, ma anche produzioni italiane rivolte al mercato internazionale, è una cosa che dobbiamo fare. Eh sì, assolutamente, perché comunque ci sono tantissimi artisti giovani che meritano di avere airplay in radio e di essere promossi. Ma anche perché qui al Soundcheck abbiamo presentato tante proposte che arrivano da paesi che fino a qualche anno fa non erano proprio considerati a livello internazionale musicalmente parlando, che ne so, la Norvegia, la Svezia, cose bellissime fatte in Finlandia, e poi tutto il nuovo versante neozelandese, australiano. C'è della musica fantastica. Sì, canadese, attenzione, adesso sta per arrivare una ventata di afrobeat contemporaneo incredibile, vi avviso, perché ci dedicheremo anche a quello, c'è da lavorare, ragazzi. Magari è bellissimo l'afrobeat. Quante ore ci vogliono per fare questo? La ricerca è difficile. Bisogna lavorare, la passione c'è, dai. La passione è il tempo che inizia a mancare, Francesco, perché pure una famiglia, No, una famiglia. Ho una famiglia e una figlia da seguire, non è che posso stare tutto il giorno a cercare musica per voi. C'è pure un tour da fare. Il tour, ci sono cose da fare, pure adesso è primavera, devo tagliare il prato, il giardino, ci sono... Qualcosa puoi passare a tua figlia, un'ottima selezionatrice secondo me. Sì, lei è fissata ancora con lei è molto pop, è come tutti i ragazzi. E tu ti fai anche consigliare. Ma no, ma io mi faccio consigliare. Se ci sono delle cose belle che ascolta che non conosco, io poi ve le faccio sentire e siete voi che le bocciate. Ecco. Mica io. Voi, allora, lo voglio dire agli amici di Radio 24. Silvia Barba e Francesco Tromba hanno dei gusti difficilissimi, un palato finissimo, e sono costretto a volte a discutere per far capire che quando si fa l'airplay radiofonico bisogna mettere da parte qualche volta i gusti personali, lo dico per esperienza. Eh sì, ma ogni tanto noi pure ci adattiamo a quelli che sono i tuoi gusti. Sì, è vero, ogni tanto, c'è, ma lo fai polemica, sempre contro voglia. Io, guarda, allora facciamo così, Francesco, Silvia, io sapete che sono una persona democratica fino a un certo punto, perché questo è il mio programma. No, no, facciamo una cosa. Allora, organizziamo l'airplay di una puntata futura assumendoci le nostre responsabilità. Io vi darò un tema e intorno a quel tema ognuno di noi farà le sue selezioni. Facciamo un botta e risposta, un brano a testa. Ci dividiamo i blocchi. Ok? Ognuno di noi presenta il suo artista. Vabbè. Perché no? Ci state? Ci sto. Senza limiti anche di spazio-temporali. Ok, facciamo proprio da una cosa all'altra. Se però poi arriva il licenziamento diretto da parte del direttore napoletano per colpa vostra, per il vostro airplay, naturalmente ne pagherete le conseguenze. Beh, gli alziamo le mani. Direttamente con me. Allora, da Miles Mosley non abbiamo detto niente di lui, ma perché ne abbiamo già parlato, direi invece, per favore, presentateci un signore che ha scelto un nome di gran classe, un nome proprio da baronetto. Sì, eh? Lui si chiama in realtà Daryl Ferris. Però si fa chiamare? Sir. Sir. E allora che fa questo Daryl Ferris? Lui viene dalla California, da Inglewood. Non è neanche di Manchester. No, non è inglese. In realtà c'ha un sacco di treccine, quasi rasta, nero, afroamericano. Bravissimo, voce fantastica, anche i suoi arrangiamenti sono molto interessanti, molto eleganti. Sì, molto eleganti, minimal, ma molto eleganti, molto in linea con la produzione attuale del contemporary R&B, new soul, new jazz, no, però new soul, new contemporary R&B. Eh sì, ha collaborato con Gil Scott, Robert Glasper. Eccolo, stanno tutti lì. Allora, l'album si intitola Her Too e i due brani che abbiamo selezionato per voi, anche perché come sempre hanno le stesure contemporanee, sono minimal anche nella durata, sono The Canvas e Sugar. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. La voce, il sound inimitabile, anche se ci riporta indietro nel tempo all'album Continuum, forse uno dei più belli di John Mayer. È proprio lui, Moving On and Getting Over, il sound di John Mayer al Soundcheck di Radio 24, brano tratto dal Wave One. Che cosa ha fatto? Un nuovo album, ha diviso, praticamente lo ha sporzionato, no? È come una bella torta, ve la faccio assaggiare un po' alla volta, divido in quattro, e quindi questo da Wave One, che conteneva quattro brani. Adesso è stato da pochissimo pubblicato anche Wave 2. Sì, sarà pubblicato anche un Wave 3 prossimamente. Tra l'altro una scelta molto intelligente, perché comunque così riesci sempre a mantenere viva l'attenzione sul tuo lavoro e riesci a promuovere al massimo i tuoi brani, come se tu facessi quattro EP nel giro di due mesi. Sì, e la promozione dura più a lungo. Ci pensa lui a promuoversi comunque su Instagram con dei selfie meravigliosi. Sì, ma scrive anche delle cose terribili. A volte sì. È polemico il John Mayer. È un po' fumantino. È vero? È vero. Gli però dobbiamo dare le gocce di Rinalduzzi. Sì. E poi fa dei commenti anche abbastanza pesanti. Delle volte è da tenere d'occhio perché crea un po' di scompiglio all'interno del bene del mondo. C'è chi lo tiene d'occhio perché è fisicamente attraente, che dobbiamo no? fare? Chi lo tiene d'occhio perché siccome è anche stato con delle star di Hollywood, insomma, alle ragazze piace, no? Beh, era un ragazzo bellissimo. Piace togliere il maschietto a una bellezza. Ma ci pensa lui a togliere, mi sa, le ragazze agli altri? Sì, ha fatto un apprezzamento su Beyoncé che credo che Jay-Z abbia in qualche modo rosicato, come dicono a Roma. Un po' sì. Cioè, che apprezzamento ha fatto su Beyoncé? Beh, che tutti a casa, perché come veste lei un paio di jeans nessuno può Anche col competere, pancione. Esatto. Va bene, ma John Mayer a noi interessa perché è un vero talento, è forte. Già da ragazzino suonava benissimo la chitarra e poi lo ha dimostrato in occasioni diverse. Abbiamo dedicato a John Mayer una puntata intera del nostro Soundcheck, proponendovi proprio le sue interpretazioni di classici I Don't Need No Doctor, no? Brano di Ashford e Simpson tratto dall'album realizzato con John Scofield, dedicato a Ray Charles, ma anche la partecipazione con Herbie Hancock. Insomma, prima di tutto è un musicista e poi è un bravissimo autore, cantante, e ce lo conferma con un'altra composizione, questa è nuovissima, è tratta da Wave 2, quindi la seconda parte dell'album. L'album come si intitola, Francesco? The Search for Everything. Ecco, la ricerca di qualsiasi cosa, praticamente è curioso, ecco, questo lo possiamo dire, Barba? Lo possiamo dire, anche noi lo siamo guardando. Sì, è un uomo curioso, il John Mayer. Il brano si intitola Still Feel Like Your Man. Soundcheck, il suono della musica. Piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. And you took hold of me and never, never. Home. faceva i DJ set insieme a Subtract lì in Inghilterra, il vocalist compositore Sampha, che è anche un discreto pianista, non posso dire che sia un eccellente pianista, però l'ho visto all'opera sempre dove, in televisione, in quale programma, tromba? Da Jimmy Fallon. E allora abbiamo comprato anche noi l'album di Sampha, dal quale vi abbiamo fatto ascoltare No One Knows Me Like the Piano. Questo è bellissimo il titolo, nessuno mi conosce come il mio pianoforte, neanche mia madre. Esatto. Il mio pianoforte mi conosce bene, bellissimo, forte. È un brano bellissimo, forse il più acustico, il resto del disco è altrettanto bello, davvero, ascoltatelo tutto. Bene, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 19:15 qui al Soundcheck di Radio 24. Buona serata e buona musica a tutti da Giorgio Telesforo, Silvia Barba e Francesco Dorombo.